get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte da Claudia e Laura e bentrovate alla 29esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Sicuramente non ricorderete, ma nella trasmissione del 21 aprile del 98, attraverso la voce di Graziella Bertozzo, vi abbiamo introdotto l'iniziativa Chi sono quella ragazza, quel ragazzo, un progetto di informazione e sensibilizzazione contro la violenza subita da adolescenti gay e lesbiche a causa del loro orientamento sessuale, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Daphne, volta a combattere la violenza sulle donne, i bambini e gli adolescenti. L'Associazione Azione Gay e Lesbica di Firenze, promotrice del progetto, annuncia con orgoglio che il progetto è stato finanziato anche per il 99 e quindi verranno organizzati ulteriori corsi ed incontri ed iniziative, rivolte specificamente ai gruppi lesbici e gay. L'associazione ha dedicato al progetto il primo numero di Finisterre, è un periodico di azione gay e lesbica nato dopo la prima esperienza editoriale maturata in 4 anni tramite il mensile Queer. Quello che vi racconteremo è tratto proprio da Finisterre, che raccoglie una serie di articoli che descrivono una realtà difficile e parlano di vite dure, ma nell'introduzione del periodico viene evidenziato come le autrici e gli autori sono lesbiche e gay che si vivono serenamente e rivendicano con orgoglio il proprio lesbismo e la propria omosessualità. Tra le autrici spiccano Elena Biagini e Graziella Bertozzo, che hanno promosso il progetto Chi sono quella ragazza e quel ragazzo, e le nostre amiche del gruppo lesbico separatista di Brescia, Il Pianeta Bianco. Il primo numero di Finisterre è rivolto principalmente a chi nel proprio lavoro e come volontaria è a contatto con adolescenti e preadolescenti, e quindi a chi svolge un ruolo di riferimento adulto e ragazze e ragazzi. Nel suo articolo Elena Biagini ben descrive come la situazione delle lesbiche e dei gay adolescenti sia ancora più complicata di quella degli adulti, soprattutto se i ragazzi e le ragazze vivono fuori dai grandi centri dove le associazioni e i locali rappresentano almeno una possibilità di incontro. È facile da parte di chi non vive l'omosessualità sulla propria pelle asserire che questo tipo di luoghi sono ghetti e che sono le stesse lesbiche e gli stessi gay ad autodiscriminarsi. Ma altrove, se non per caso, come si può trovare persone con i suoi stessi desideri? Chi ci garantisce di non essere derise o aggredite se si è in libera compagnia di una partner dello stesso sesso? Eppure, nella maggioranza dei casi, nel contesto in cui si vive o si cresce, nel caso delle adolescenti, nelle istituzioni come scuole, aziende sanitarie, circoli ricreativi, basterebbe trovare riferimenti a lesbiche o gay. Basterebbe interrompere la millenaria cancellazione di lesbiche e gay come concittadine e concittadini possibili, che esistono e vivono nei quartieri delle altre e degli altri. Basterebbe che medici, ginecologi, psicologi, insegnanti non dessero per scontato che la persona che ha davanti sia eterosessuale. A tutte queste difficoltà, nell'età adolescenziale, bisogna aggiungere le caratteristiche di quel periodo: la mancanza di indipendenza economica, il legame materiale e morale totale e impari con la famiglia, che rende qualunque scelta difficile, contrastata e spesso ignorata dai genitori. Ed è proprio per questo che è nato il progetto Chi sono quella ragazza e quel ragazzo, iniziato nel dicembre del 97 e proseguito per tutto il 98. Il primo passo è stato la ricerca, l'acquisizione e l'analisi di dati relativi a situazioni di violenza e di abuso subiti da lesbiche e da gay. È stato inserito nelle pagine web dell'associazione un questionario, sono stati contattati telefoni amici lesbici e gay ed è stata effettuata una ricerca bibliografica e merografica in rete. I dati raccolti ed esposti nel primo numero di Finisterre da Graziella Bertozzo evidenziano una situazione ancora più grave di quella che appariva dall'indagine ISPES, condotta con la collaborazione dell'Arci Gay nel 1990. 900 sono stati i questionari compilati e nel 46% delle risposte si denunciano situazioni di discriminazione, mentre nel 37% dei casi vere e proprie violenze. Inoltre, il 40% dei gay e delle lesbiche che hanno compilato il questionario, in genere tra i 14 e i 16 anni, ha pensato di suicidarsi ed il 13% dichiara di aver effettivamente tentato di mettere in atto questo proposito, in media in un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. C'è da dire che il 61% di chi ha compilato il questionario ha meno di 31 anni e l'88,8% è di sesso maschile. Se i giovani gay subiscono violenza soprattutto dal gruppo dei pari, quindi da amici e compagni di scuola, le giovani lesbiche subiscono aggressioni soprattutto all'interno della famiglia, in particolare dalle madri, anche se nelle generazioni più giovani è in aumento la violenza sulle lesbiche, all'interno della scuola, forse perché il lesbismo ha acquisito maggiore visibilità. Nella fase preparatoria del progetto sono state effettuate anche 30 interviste a soggetti testimonial individuati, tra insegnanti della scuola media inferiore e superiore, operatori e operatrici sociosanitari e volontari e volontarie del movimento, cercando di avere un quadro il più possibile rappresentativo delle diverse professionalità impegnate nei settori educativi e sociosanitari, per rilevare quale fosse la percezione del lesbismo e dell'omosessualità. Da queste interviste è emerso che pressoché tutte e tutti pensano che lesbiche e gay adolescenti fossero soggette e soggetti a discriminazioni e violenze, ma pochi ne avevano avuto conoscenza diretta. I 6 corsi di informazione e sensibilizzazione al rispetto delle identità sessuali sono stati svolti a maggio e giugno ed hanno visto la partecipazione di 12 docenti, 5 uomini e 7 donne, e 33 operatrici e operatori sociosanitari, 3 uomini e 31 donne. Ampio spazio è stato riservato all'aspetto emozionale e di confronto, avvalendosi di docenti lesbiche e gay, per evidenziare l'importanza di un reale scambio tra differenti competenze, quelle professionali delle partecipanti e dei partecipanti e quelle di chi ha rielaborato situazioni di discriminazione relative al proprio lesbismo o omosessualità. Il progetto, dopo la pubblicazione di Finisterre e di 20.000 dépliants rivolti alla popolazione e contenenti informazioni di base, è terminato nel novembre del 98 con un workshop a Bruxelles, con i partner stranieri SETA di Helsinki, Gay HIV Strategies e Gay Switchboard di Dublino, e con un incontro europeo sul tema adolescenza, omosessualità e violenza. Insomma, un progetto più che interessante per chi come noi del coordinamento Lesbiche Romane crede in una forte politica di rivoluzione culturale, oggetto del primo finanziamento europeo ad un'associazione lesbica e gay italiana nell'ambito di un'iniziativa non specificamente rivolta alla popolazione omosessuale. Per saperne di più e per ottenere copie gratuite del primo numero di Finisterre, contribuendo alla sua diffusione, potete rivolgervi ad Azione Gay e Lesbica, via San Zenobi 54R 50128 Firenze. Il telefono fax è 055 476 557, il lunedì dalle 16 alle 20. L'email gayellesbiche.fi@agora.stm.it. Remembering face, conversations, just a body for the lonely. Spend one night with me, satisfy me for free, and I'll love you endlessly. You always tell them that you'll give them what they want, so give me what I want. Tell me I'm the only one. Set you free to an endless valley of fruits both sweet and sour, and whatever displeases your palate, my kisses will wash away. Stay, if you must dance, dance for me. So blessed are the pure at heart, for they shall see God. So close your eyes and dream, for the world will blind. I'll judge not, so that I may not be judged. Give me what I want. Mary Magdalene, dall'artista lesbica Michelle De Gausillo, e sulle note di questa musica volevo porvi ciò che ho letto sul Venerdì di Repubblica. Da quando le due attrici Anne H. Ellen DeGeneres hanno reso pubblico il loro legame, TV e studi cinematografici hanno chiuso loro le porte. Dopo la sospensione di una serie televisiva e dopo un periodo di acide polemiche con la catena televisiva ABC, Ellen ricomincerà a lavorare in una commedia di Ron Howard. La Hitch pare che abbia in cantiere una parte in Psycho, il remake del classico di Hitchcock, ma questo non significa affatto che il mondo platinato di Hollywood non abbia problemi ad accettare l'omosessualità, nonostante l'industria dello spettacolo sia piena di lesbiche, di gay, dichiarati e non. E a riprova del fatto che il discorso amoroso tra donne non pare del tutto assimilato nel mondo del cinema, Lauren Lloyd e Leslie Betzgerb, produttrici lesbiche di Hollywood, denunciano che nella realtà poco è cambiato. Nessun film nel circuito filmato ritrae verosimilmente gli amori fra donne, escludendo le lesbiche assassine come la figura impersonificata da Sharon Stone in Best Instinct e Diabolique, ritenute pessime e infamanti. Sappiamo inoltre che il pubblico apprezza molto di più storie di gay e travestiti, addirittura si diverte da morire con l'uomo in tacchi alti e piume di struzzo come nel Vizzetto e Priscilla, e rifiuta le ragazze in uniforme con giacca e cravatta. L'epoca del si fa ma non si dice, insomma, non è ancora conclusa. Il velo più o meno dipinto con cui Hollywood dell'età dell'oro copriva gli amori diversi è ancora là. Appare quindi naturale raccontare quella stagione di vieti e passioni durante la Grande Depressione, dove il codice Hays, in vigore in America dal 1922 al 1968, riguardava non solo i film, ma anche la vita privata di chi li faceva. Negli anni 30 e 40, la presenza omosessuale nella capitale del cinema era fortissima, ma tenuta segreta. Chi usciva allo scoperto veniva licenziato, come avvenne con James Whale, il regista di Frankenstein, e Judith Anderson, la governante di Rebecca. In particolare, il catalogo delle amiche è eccezionalmente folto e prestigioso. Garbo, Dietrich, Stanwich, Katherine Hepburn, Judy Garland, solo per citare i nomi maggiori, non contando i casi di sarte e aiuto registe che vissero e amarono all'ombra di quelle luminose celebrità. Al centro di quel grande dispendio di passioni che fu la Hollywood della Star System, incontriamo una donna bizzarra, stravagante, irresistibile. Er Mercedes de Acosta, 1893-1968. Aristocratica spagnola cresciuta fra Parigi e New York. Autrice di drammi su personaggi storici come il Botticelli o come Giovanna d'Arco, inesoribile amante di donne famose. Alice B. Toklas, la compagna della scrittrice Gertrude Stein, diceva di lei: Mercedes ha avuto le tre donne più importanti di questo secolo. La Garbo, la Dietrich, sono le prime due. La terza potrebbe essere la stessa Stein o addirittura Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente del New Deal. Bruna, gli occhi color del carbone, i capelli lucidi di brillantina, Mercedes aveva due grandi amori: il teatro e le donne. Per lei, raccontano, Isadora Duncan danzò l'intera partitura del Parsifal. Era il 1917. Nello stesso anno a New York divenne l'amante di Ella Nazimova, femme fatale, partner di Rodolfo Valentino. Un matrimonio di convenienza nel 23 non impedì di continuare a collezionare amori. Conosceva tutti e tutti la conoscevano. L'incontro con la Garbo avviene a Los Angeles nel 1929. Ammagliata dal bagliore di eternità che radiano gli occhi della divina, la bruna signora comincia un intenso corteggiamento. Una notte Garbo l'attende in giardino e per indicarle il percorso cosparge il sentiero di fiori. Poi finalmente una sera Mercedes arriva a casa dell'amata per guarirla di un terribile raffreddore. Porta arance e limoni, i doni di Buddha. Afferma di volersi prendere cura della sua vita. Garbo acconsente, dissolvenza. Ma noi sappiamo che quella notte le due donne divennero amanti. La loro storia conosce grandi momenti, come la fuga a due a Silver Lake, dove Mercedes fotografa un'inedita Garbo col seno nudo. Ma la paura di Greta di essere scoperta genera tensioni. Quando molti anni dopo Mercedes pubblicherà le sue memorie, Garbo non la perdonerà. Ma intanto a Hollywood un'altra donna fatale arriva dall'Europa. È Marlene Dietrich, l'angelo azzurro. In gara con la Garbo, Marlene vuole rubarle anche l'amica. Così si presenta a casa di Mercedes preceduta da un immenso mazzo di rose bianche. Non potevo fare a meno di conoscervi, le dice. L'assedio dura a lungo. Poi nel settembre del 32, mentre Greta è in Svezia, l'amore divampa. Molto più vulnerabile di Greta, fra una coppa e l'altra di champagne, su cui immancabilmente galleggia un petolo di rosa, l'angelo azzurro non rinuncia ad altri amori. Mercedes le scrive una lettera disperata. Chiedimi qualunque persona, io la porterò nel tuo letto. Alla fine tornerà da Greta. Altre donne, altri segreti, altri amori si accendono dietro gli schermi del desiderio. Per tutte la consegna è il silenzio, come per Joan Crawford, che però non riuscirà a distruggere i fotogrammi rimasti di un film porno che la mostra nuda abbracciata a un'altra donna. Katherine Hepburn, bellezza androgena, preferisce gli abiti maschili e le compagnie femminili. Judy Garland, bambina prodigio, svezzata troppo in fretta con psicofarmaci e alcol, cerca negli amori con donne un impossibile risarcimento. Infine Barbara Stanwyck, sposata per copertura a Robert Taylor, Un gay terrorizzato dalla sua bellezza troppo affeminata inventa la nuova donna fatale, la Dark Lady, che rimpiazza le romantiche eroine care alla Garbo. Per i gay, uomini e donne, il momento è il momento peggiore. Oggi una nuova Garbo o una nuova Marlene sono impensabili, nate dalla sublimazione di un desiderio negato. Somigliano un po' al cigno perfetto che si sviluppa dal brutto anatroccolo. Nell'era del politicamente corretto si delineano tutte le molteplici differenze e noi ci auguriamo con tutto il fascino e la ricchezza tipica della diversità. Never remembering faith, conversations, just a body for the lonely. Spend one night with me, satisfy me for free, and I'll love you endlessly. La musica che avete ascoltato in sottofondo sul parlato è della musicista lesbica Inge Latz. Per il nostro spazio di musica lesbica indipendente ora vi proponiamo No Place for Escape, Nessun posto dove scappare, del gruppo delle Subway. Like everybody. Prima di morire nel novembre del 77, la scrittrice Alba de Cespedes donò tutte le sue carte agli archivi riuniti delle donne che hanno sede a Milano, nell'antica casa della centenaria Unione Femminile Nazionale. 100 metri quadri di archivio per condurre tutti noi nei meandri silenziosi di quella che era stata una lunga vita geniale che non attendeva altro che di essere rivelata attraverso l'esagerazione dei suoi reperti, sapientemente raccolti e conservati per scongiurare la smemoratezza dei posteri. La De Cespedes aveva segnato su un quaderno una specie di mappa del tesoro, la toponomastica della sua paziente parossistica documentazione che dilagava in ogni parte dell'appartamento. Alla fine, nella sede dell'Unione Femminile, fondata nel 1899 per consentire l'elevazione e l'istruzione della donna, arrivarono ben 105 casse e 3 bauli con più di 6.000 libri e documenti. Da allora, al Fondo De Cespedes, lavorano con perizia e passione alcune donne dell'Archivio Centrale di Stato di Roma e della Sovrintendenza Archivistica della Lombardia, alcune dottorande in storia delle scritture femminili e una laureanda in storia contemporanea. Tutte donne, in un luogo di donne, fondato da donne, attorno alla memoria, alla vita e al lavoro di una grande donna. Le studiose affermano entusiaste che l'archivio della De Cespedes rappresenta uno dei più affascinanti aggregati archivistici esistenti oggi in Italia, perché inizia ancora prima della sua nascita e arriva ricchissimo sino alla morte. L'archivio è eccezionale, in quanto di solito i fondi femminili sono scarsi, anche perché la maggior parte delle donne non si ritiene tanto interessante da raccogliere i documenti della propria vita, né tantomeno immagina che dopo la morte qualcuno si prenda la briga di occuparsene. Di tanto carteggio e del labirinto della sua stessa vita, dei ricordi e del suo troppo ricco archivio, preferiamo ricordare il suo fortunato romanzo, scritto nel 49, dalla parte di lei. Questo libro è molto di più di un'opera protofemminista e il suo valore oltrepassa di gran lunga la denuncia della condizione subalterna della donna, rivendicazione che appare anche dolorosa e risentita. Quest'opera appare ricca di potenti allegorie e di forze espressive. Donne casalinghe che vivono nell'ombra dei condomini impiegatizi del quartiere Prati a Roma e fiere matriarchi abruzzesi in una galleria indimenticabile di ritratti forti e duri. Ma il nucleo esistenziale profondo, il senso della vita e dell'esperienza della protagonista si potrebbe racchiudere in un celebre scambio epistolare tra la Ginsburg e la De Cespedes, a proposito dell'anima femminile. «Le donne, scrisse la Ginsburg, hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla. Questo è il vero guaio delle donne. La De Cespedes... rispose, al contrario di te, io credo che questi pozzi siano la nostra forza, poiché ogni volta che cadiamo nel pozzo, noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano e nel riafforare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono di comprendere tutto quello che gli uomini, i quali non cadono mai nel pozzo, non comprenderanno mai. If the talk is too easy. baby, give me some of what you got. Album New Beginning di Tracy Chapman, Smoke and Ashes. Si trascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbico romane nell'ambito del martedì femminista autogestito sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. Noi siamo qui ad aspettare le vostre telefonate, i vostri commenti, suggerimenti, eccetera, eccetera. Allora provate a fare questo numero 06 49 17 50. Waving love for you, so blinded that I thought all your lies were true. Now I know for certain, since you've gone away, it was just a smoldering fire. Mystic for a place, only smoke and ashes, babe. Hey, babe. Appuntamenti. Questa Questa settimana la nostra rubrica degli appuntamenti si propone più che altro come una carrellata di informazioni e notizie. Dal prossimo anno la ministra per le pari opportunità, Laura Balbo, garantirà la parità uomo-donna con i libri di testo DOC. Pare infatti che nel 2000 i libri di testo abbandoneranno la visione maschilista della storia e della scienza e si dimostreranno attenti ai rapporti tra uomini e donne, alle identità in genere e ai contributi di diverse culture, tra cui il movimento delle donne, SIC. La ministra e gli editori vorrebbero proporre un codice di autoregolamentazione rivolto soprattutto ad autori ed insegnanti per spazzare via stereotipi, sessismi e vecchi linguaggi. Un esempio per tutti: non si parlerà più di suffragio universale per indicare il voto concesso nel 1913, bensì di suffragio universale maschile, visto che le donne hanno dovuto aspettare fino al febbraio del 1946 per poter esprimere il loro voto. Sarebbe riduttivo, spiega Heather Serravalle, una delle curatrici del progetto, pensare che il punto di arrivo di tutto questo sia una rivalutazione della presenza femminile nei settori oggetto di studio, dalla storia alla scienza. Si tratta solo di un'opera di sensibilizzazione. Gli editori dicono di essere ottimisti perché non ci sarà un'ossessione del political correct, quindi né norme rigide né imposizione di comportamenti. L'articolo apparso il 29 gennaio sulla Repubblica si conclude con un «si tratterà di riflessioni di persone colte che in modo creativo suggeriranno agli autori spunti su cui lavorare in modo libero», il che mi fa pensare che in fondo non esiste nessuna intenzione di cambiare lo stato delle cose, ma più che altro dare l'impressione di accarezzare una realtà con la solita vecchia raggrinzita mano paternalista. Come abbiamo già accennato nella scorsa trasmissione, la settima edizione di Immaginaria, che si terrà a Bologna presso il Cinema Nosadella dal 25 al 28 febbraio, vedrà anche noi come protagoniste, noi del coordinamento Lesbiche Romane e con le nostre amiche del Martedì Femminista Autogestito, in un dibattito intitolato La controinformazione e i media di comunicazione, l'esperienza radiofonica del coordinamento Lesbiche Romane e della TGTL in Francia. Anche quest'anno Immaginaria, nella scelta dei film, ha cercato di scoprire e di dare risonanza a produzioni provenienti da luoghi difficili per le lesbiche. Una ricerca non facile, grazie alla quale quest'anno potremo vedere per la prima volta alcune opere provenienti dal Messico, dal Brasile e dal Salvador. Inoltre si affacciano per la prima volta al festival altri tre paesi europei, la Scozia, l'Irlanda e la Svezia. Se volete informazioni su incontri e dibattiti, su come si arriva al festival, dove dormire, cosa vedere, eccetera, potete telefonare il mercoledì dalle ore 18 alle 21 allo 051 263 592 oppure richiedere informazioni all'indirizzo di posta elettronica asclb@iperbole.bologna.it. Il 29 gennaio deve essere stato proprio un giorno speciale per la redazione di La Repubblica, perché sfogliando il giornale non posso non restare allibita dalle innumerevoli notizie che mi portano a pensare sempre di più ad un mondo dove purtroppo la realtà supera alla grande ogni possibile buona e sana fantasia. La cronaca si tinge di rosa con un articolo dal titolo Vademecum al femminile, per isolare gli stupratori. Qui segue un decalogo di buone maniere tra i sessi. A Torino sono state distribuite ai cittadini 5.000 copie di un opuscoletto che contiene delle regole contro le violenze sulle donne. Ma la cosa che fa inorridire e non è come dovrebbe essere indirizzato solo ed esclusivamente alle donne, ma pretende di cambiare la millenaria cultura maschilista con un decalogo rivolto ai signori uomini, perché lo stupro è una realtà e che comunque gli uomini devono capire che i tempi sono cambiati e che un complimento o una battuta fatta da uno sconosciuto possono essere sgraditi. Il decalogo si conclude con «Evita ovunque anacronistici comportamenti da pappagallo». L'articolo, come dicevo, supera ogni possibile immaginazione. L'eterna mano paternalista colpisce ancora. Sempre sulla Repubblica, ma questa volta delle donne, del 2 febbraio, si fa un breve cenno alla polemica tuttora esistente sul termine femminismo, che divide ancora le donne. Sono passati più di 30 anni da quando le femministe nei cortei si proclamavano streghe. Eppure le provocazioni di allora, rivolte sia agli uomini che alle donne, fanno sentire ancora oggi la loro eco. Infatti è bastata una dichiarazione della ministra delle donne del Regno Unito, la baronessa Margaret Jay, nella quale accusava il femminismo di essere stato troppo negativo, di aver alzato un muro tra i due sessi, perché si scatenasse di nuovo la tempesta. E il dibattito si è esteso anche oltreoceano. Ma ci si chiede, chi sono quelle donne e quegli uomini che hanno ancora paura oggi della parola femminismo? La giornalista riporta un commento di Luisa Muraro. Secondo la Muraro, a storcere il naso di fronte alla parola femminismo sono le donne che hanno bisogno dell'approvazione maschile, donne che temono ogni possibile conflitto sulla propria identità e che hanno del movimento un'immagine distorta, filtrata attraverso il risentimento maschile. Continua affermando che negli anni 70, quando sono cominciate le riunioni di autocoscienza, la reazione degli uomini è stata di rigetto. Molti pensavano che per una donna la massima aspirazione fosse l'integrazione in un mondo declinato al maschile. Anche lo stesso movimento delle donne è stato diviso fin dall'inizio in due scuole di pensiero. Alcune vedevano la lotta per la differenza, altre chiedevano l'uguaglianza. Oggi, afferma la Muraro, le esperienze di lotta hanno avuto successo e hanno scardinato il sistema patriarcale. Pertanto, a suo parere, non ci sarebbe più bisogno dell'etichetta del femminismo, perché ormai cresce il numero delle donne che si pongono il problema di essere apprezzate perché diverse, che non vogliono più essere semplicemente cooptate nelle stanze del potere. Afferma che l'alta presenza di ministre nell'attuale governo non basta per affermare che le cose sono davvero cambiate, perché non è stato il numero delle elette ad aumentare, ma quello delle donne nominate dal capo dell'esecutivo. Ma anche tutto ciò, secondo la Muraro, potrebbe avere una valenza positiva, cioè significare che le donne preferiscono dedicarsi ad una politica più alta, quella del volontariato, dei rapporti, perché, afferma, si tratta di un'accezione meno limitativa che va al di là della carriera nei partiti. Si identifica con la pratica più nobile delle relazioni e il riconoscimento della libertà intellettuale. È proprio vero, dalla sua torre d'avorio queste sono le uniche cose che la Muraro riesce ad affermare. Ma chi l'ha detto che hanno a che vedere con l'universo femminile e lesbico attuale? Oserei dire esattamente il contrario. Come vi abbiamo già accennato, la settimana scorsa il Centro Femminista Separatista di Roma ha traslocato nella sede provvisoria di via San Francesco di Sales 1B, in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione del complesso del Buon Pastore, che dovrebbero terminare alla fine di quest'anno. Potete quindi trovarci lunedì a partire dalle ore 20. Anche il telefono fax 06 68 64 201 è di nuovo attivo. Ma la grossa novità è che anche il coordinamento lesbico romane ora ha un indirizzo di email clr50@hotmail.com. Allora, che aspettate? Scrivete, telefonate, mandate un fax. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.